nuovamente in diretta, 8:04 minuti, Breakfast Club, molto entusiasmo, prima puntata del Voltiamo Pagina, la rubrica letteraria per la stagione 2023-2024. Inizio quindi dando il buongiorno a Stefano Calanchi, che sarà operatore video e non solo, anche notaio per i nostri quiz, e ovviamente bentornata e ben ritrovata Silvia Albertazzi. Buongiorno Silvia. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo belli carichi in partenza. Sì, sì. Come ti senti ogni volta che arriva? Finite le ferie. Adesso sembra un po' il lento adagio del a te e famiglia. Beh, a me diciamo indispone molto di più, beh, finite le ferie, che sembra quasi, capito, un motivo di, tra virgolette, invidia per quanto riguarda il periodo trascorso e quello che invece adesso sei accomunato anche tu al mal comune mezzo gaudio degli impegni. Questo è l'emozione che mi viene trasmessa quando sento queste parole. Ho visto che hai portato un libro con tanto di fascetta, quindi sì, la nostra amata fascetta di presentazione. Questo è il segnale che il libro sarà a vostra disposizione, come del resto anche il libro che ho portato io in selezione di partenza. Silvia ha già notato che non è esattamente una novità, ma ne parleremo poi più tardi. Hai fatto vacanze che ho seguito sui social, lontane ma quanto mai interessanti, quindi il viaggio in Canada è stata un'esperienza bellissima, me lo confermi? Sì, bellissima. Ok, sì. Perfetto. Quindi finite le ferie. Finite le ferie. Però guarda, ti autorizzo a invidiarle. Ah, beh, guarda, questo indubbiamente già il fatto che questo sorriso è quanto mai esplicito, che anche se non potete vedere, magari lo vedete poi nel video che registreremo a breve. Ma noi iniziamo con la nostra playlist letteraria. Silvia si è occupata anche della playlist musicale, grazie Silvia. Ribadisco il 333-180-9494 per avere nella vostra biblioteca Fujiko il primo libro presentato per questa stagione. La casa editrice molto prestigiosa, e a questo punto ti lascio la parola, Silvia. Allora, io sto ridendo non solo perché ricordo con piacere le vacanze in Canada, ma soprattutto perché ho portato un libro nuovo appena uscito, di cui non parlerò. O come? Okay. E non ne parlerò per un motivo molto semplice. So che sei molto riservata, non è che parli delle vacanze, no? No? Ah, okay. Non parlerò di questo libro perché non l'ho letto. Bene, previsione di lettura. E non l'ho letto, no, assolutamente. Io questo libro non l'ho letto perché ho letto il precedente di questo autore ed è uno dei libri che mi hanno maggiormente sconvolto l'anno scorso. Ne abbiamo anche parlato qua, e chiaramente appena mi è arrivato questo, io ho detto: questo io non lo apro neanche, perché mi fa paura. Capisco la fascetta. Capito, la fascetta è lì perché io il libro proprio non lo, quando ho letto sul risvolto di copertina che erano le nuove avventure di questi due investigatori che lavorano nello Yorkshire, io ho detto: ah no. Non ne voglio più mezza. Okay. Il libro a cui faccio riferimento, quello che mi ha veramente sconvolto, mi ha dato veramente tanto fastidio l'anno scorso, era Blu come te di Benjamin Myers, e ne abbiamo anche parlato qua. Facendo riferimento per esempio anche al titolo, che Blu come te stava a significare un cadavere che diventando blu. Infatti. E era un libro scritto benissimo, senza dubbio, un giallo molto avvincente, però con delle pagine di tale efferatezza che veramente io sconvolgenti, sia dal punto di vista dello splatter, se vogliamo, ma anche dal punto di vista proprio delle situazioni, che io ho detto: di questo tipo di violenza, anche verbale, non ne ho bisogno. Per cui Benjamin Myers lo regalo volentieri, lo metto volentieri in palio. Ripeto, non è una lettura di serie B, è solo una lettura per stomaci forti. Ok. Quindi chi ha per caso avesse letto Blu come te, o chi fosse per esempio sulla fascetta c'è scritto Benjamin Myers e il Cormac McCarthy dello Yorkshire. Sai che lo stavo per citare, che tutti e due appunto abbiamo la stessa sensazione su un grandissimo scrittore. Ecco, quindi la fascetta è giusta stavolta. Quindi per gli amanti di Cormac McCarthy questa può essere una lettura piacevole. Per me no. Neanche la quarta di copertina hai letto? Ho letto la quarta di copertina. Ah, okay. Ed è stato lì che ho imparato quando mi dice che c'è una piccola, in una piccola città dello Yorkshire cominciano a susseguirsi aggressioni violente e inspiegabili e accorrono sul posto Roddy Mace, il giornalista Roddy Mace e il suo amico il detective James Brindle, a me si è scesa la lampadina, ho detto ma questi sono quelli di Blue in the Face. Calma un attimo. Poi più avanti appunto mi parla appunto che James Brindle aspirerà, lo aiuterà a risolvere queste situazioni di tanta efferratezza. Aggiunge. Ecco. Okay. Io la parola efferratezza è comunque come spegnere un incendio col cherosene. Appunto. Diciamo in ogni caso il titolo che è Giorni sempre più bui. Mm. Titolo è sempre un programma. Pausa. E anche la copertina è bella buia e l'autore Benjamin Myers, l'editore Bollati Boringhieri. Casa editrice molto prestigiosa. Ne approfitto per dare il ben ritrovato al Voltiamo Pagina anche al Luigi. Strano, Andrea non ha ancora scritto, lo stiamo aspettando. Grazie Luigi, già presente al Breakfast Club e oggi si conferma al Voltiamo Pagina. Anche a Maria, buongiorno Silvia, buongiorno William, ben ritrovati al Voltiamo Pagina, ben ritrovata a te e grazie. Ribadiamo il 333-180-9494. Il libro sarà ben attento il nostro Alfredo Pasquali, perché invece per queste narrazioni dà assolutamente un'attenzione e anche una passione, ma è giusto così, no? Ognuno certo ha i propri gusti. Cioè, ho detto non, senza dubbio non può essere un libro brutto scritto male, perché l'autore è un notevole autore inglese. Non è il mio genere. Certo. Però ho qualcos'altro di cui parlarti. Grande. Vuoi mettere un po' di musica prima? Sì, stavo giusto per dirti, facciamo uno stacchetto musicale. Brava Silvia. La playlist che ho scelto non poteva che essere di autori canadesi. Ah. Quindi avremo quattro dischi di autori di artisti canadesi e per colpa del notaio sì, non ci saranno né Rufus Wainwright né Leonard Cohen. Immaginavo, perché ho dato un'occhiata e ho detto ma come, non c'è Leonard Cohen? Però insomma me l'ha proibito. Sì, ha messo il veto, perché giustamente, però dai, do ragione un pochettino anche a Stefano, mi trova solidale perché ne abbiamo già proposti, insomma, quindi è giusto avere anche una visione, visto che il Canada dal punto di vista musicale infatti è quanto mai ben fornito. Infatti lo vedremo subito. E chi sarà ad aprire questa playlist? Allora, ad aprire questa playlist saranno gli Arcade Fire con Intervention. Buon ascolto! Già, questa è la colonna sonora. Giusta per Myers. Cutting off the phone, they tell me you're not home. No place to hide, you're fighting as a soldier on their side. You're still a soldier in your mind, though nothing's on the line. Say it's money that we need, as if we're only mouths to feed. I know no matter what you say, there's some debts you'll never pay. Working for the church while your family dies. You take what they give you and you keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Soldier grown, go ahead. have it alone. I can taste the fear. Lift me up, take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die. Just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? Quel giovane hipster del notaio, me lo vedo al Bronson o all'Anabi ad ascoltare questa musica. Non sorridere, questa. No, no, io rido proprio, non sorrido. Sguaiatamente. È il giovane della formazione, si può dire. Ah, senza dubbio. Sì, anche per la selezione musicale. Grazie Stefano, ricordo anche il video che oggi sarà poi portato su www.radiocittafusico.it. Allora, piccola divagazione, non voglio fare le solite figuracce. Canada, parte francese, parte inglese o tutte e due? Cosa? Dove sono stata io? Certo, no, io non sono mai stato in Canada. No, pensavo che mi chiedessi da dove venivano gli Arcade Fire. Ah no, quello sei più importante per me. Dunque, ero di base nella parte inglese a Toronto. Ok. Però poi ho fatto anche una puntata verso la parte francese nel Quebec. Tutto. Sono stata a Montreal, a Quebec City. Ho fatto il pellegrinaggio coiniano, Certo. L'ho fatto. Immaginavo. E non è stato facile, ma il notaio è stato bravissimo a trovare sia le case di Cohen sia la tomba. Comunque, niente, dicevo, non parlerò del libro di Myers, ma ti volevo parlare di un'autrice che mi hanno consigliato in Canada, che io non conoscevo e che mi ha veramente stupito, e mi ha stupito anche che non ne abbiamo mai parlato qua. Si chiama Anne Enright ed è un'irlandese tradotta in italiano. Tra l'altro, apro una parentesi, mi è stata consigliata a una festa, insomma a una festa di compleanno, parlando con un signore canadese, un musicista. Ci si scambiava opinioni su libri da leggere. Io gli ho consigliato il nostro, oramai è nostro visto che ha vinto anche il Pellegrino, certo. Damon Galgut, e lui mi ha detto io da quello che mi racconti di questo autore penso che ti potrebbe piacere la mia scrittrice preferita, che è l'irlandese Anne Enright. Me ne ha parlato così bene che mi sono incuriosita. La sera sono entrata nel sito della biblioteca, della nostra biblioteca, Sala Borsa online, e me lo sono preso in prestito. Per cui questa è una cosa che consiglio ai nostri ascoltatori: se vi trovate a non voler acquistare un libro, a non avere o essere lontani come ero io, a volere leggere qualcosa in particolare, iscrivetevi alla Emilib, alla biblioteca online del comune di Bologna, di Sala Borsa, ma credo ci si possa iscrivere in qualsiasi biblioteca anche di quartiere. Hanno un sacco di roba. Io questa autrice l'ho trovata con più titoli, tra l'altro, e ho letto due suoi libri che sono La Veglia, perché è stato pubblicato, se ricordo bene, dalla nave di Teseo, e La strada verde, pubblicato da Bompiani. E mi sono veramente rimasta colpita, perché sono libri in cui lei parla principalmente delle dinamiche familiari, ma lo fa in una maniera molto simile, se vogliamo, a quella di Galgoth nella Promessa, però una maniera che io non avevo mai trovato in libri di autrici contemporanee soprattutto. E quello che mi ha colpito in particolare è che lei si sofferma soprattutto, non tanto come sempre quando si parla di famiglie, sul rapporto genitori-figli, ma sul rapporto tra fratelli. Sono sempre storie... Ti colpiscono sempre questi racconti. Sì, perché sono... in qualche modo mi ci sono anche un po' ritrovata, se vuoi. Sono sempre storie di famiglie, si svolgono in Irlanda, e sono sempre storie di famiglie piuttosto numerose. Nella Veglia addirittura sono 10 figli, che poi prendono strade diverse. Non sono famiglie povere, sono famiglie medio borghesi, diciamo, o piccolo borghesi. Nella strada verde sono 4 soltanto i figli, però c'è questa analisi molto particolare di un rapporto che è un rapporto che non ti scegli, che è quello coi fratelli, non è un amico che te lo scegli, e che quindi può essere anche conflittuale, può essere difficile, però alla fine c'è un momento in cui realizzi in qualche modo, almeno se non con tutti i fratelli, ma con qualcuno, un'unione. E mi ha colpito anche il modo di scrivere, perché chiaramente questo tipo di narrazioni può essere molto lineare, può essere molto così minimalista, può essere anche noioso, se vuoi. Invece c'è una struttura che è sempre molto particolare. Nella Veglia, per esempio, lei è tutto visto attraverso una protagonista, una di queste sorelle, fratelli, che deve farsi carico dell'organizzazione del funerale del fratello più giovane che è morto a Londra, annegato, e che ha vissuto una vita un po' sbandata, e che era il suo fratello preferito. E mentre lei va a Londra, cerca di recuperare la salma, organizza la veglia funebre per quando arriverà la salma, eccetera, mentre lei fa queste cose, chiaramente ritorna col pensiero, ma in momenti diversi, momenti molto frammentari, quindi non è una narrazione tutta in flashback, alla loro infanzia, a un periodo della loro infanzia che hanno passato con la nonna, e c'è qualcosa in questo periodo che non quadra. C'è un mistero, forse, che lei è come se si autopsicanalizzasse, insomma, che lei riesce poi a che quando lei riesce a, attraverso un'immagine che le torna alla memoria, ogni tanto capita, no? Che ti torna, certo, un'immagine, è un trigger, attraverso innesco. L'immagine di questo signore, questo tizio che arriva così, lei riesce a capire appunto che cosa è successo al fratello e perché il fratello poi non sia riuscito a ritrovare un equilibrio e sia sempre stato un po' sbandato. Dietro c'è anche tutto un discorso molto duro sull'educazione religiosa e sulla Chiesa cattolica, appunto. Immaginiamo. Nel secondo, invece, ogni capitolo praticamente è dedicato a uno dei fratelli e lo coglie in un dato periodo della sua vita e in una data decade. In questo modo nel libro si percorrono 4 decadi fino ad arrivare alla fine, dove i fratelli si sono tutti persi, una sola è rimasta in Irlanda, le due ragazze sono rimaste in Irlanda, i maschi sono in giro per il mondo, uno parte entrando in seminario e poi si scopre gay e finisce negli anfratti gay di New York, alla fine addirittura lo troviamo appunto insieme al suo compagno a Toronto. Un altro lavora per una ONG in giro per il mondo e così, e alla fine ancora una volta anche questi si ritrovano insieme in una circostanza meno tragica, cioè per passare il Natale con la madre che insiste tanto. La madre, che è un tipo molto strano, molto con la testa per aria, un po' particolare, anche una madre pesante, insomma, da sopportare. Invasiva, anche se invade poco, questi sono lontanissimi, vabbè. Però comunque con quella disgraziata che è rimasta vicina, molto appunto, pesa, è pesantina, e appunto si ritrovano per questo Natale nel quale, e poi non dico di più, a un certo punto nel pomeriggio la madre scompare. Ah, c'è sempre il mistero anche sì, in questo. Sì, sì. E scompare e va a camminare appunto su questa strada verde che dà il titolo al romanzo, che è una strada che porta a un bosco, una strada, loro abitano in una piccola cittadina sul limitare di un bosco, e però siamo al 25 dicembre, quindi c'è la neve, comincia una tempesta di neve, e c'è la difficoltà dove sarà questa vecchia, dove è andata a finire, una signora molto anziana. Beh, non diciamo altro. Non dico altro, dico solo che questi fratelli che non si potevano vedere, che non si vedevano da decenni e che hanno tutti dei problemi in un modo o nell'altro, verso la fine riescono in qualche modo, nella ricerca di questa madre, eccetera, quantomeno a comunicare o a capire perché tra di loro c'è, per quanto sia un legame, per quanto esile, che li tiene insieme. Nonostante anche la distanza. Nonostante anche la distanza e nonostante proprio le divergenze complete. Totale, di opinioni, sì, di idee, eccetera. Allora, l'autrice, ribadiamo il nome, Anne Enright. Potete trovarlo anche in libreria, sì, ovviamente. Sì, sì, sì. Cioè, giustamente, certo. Silvia ha avuto questa possibilità, però, come ben sapete, io sono molto legato. Anzi, no, anche io. Ma anche Silvia. Cioè, però hai avuto questo consiglio caloroso e hai detto: io voglio avere la possibilità di leggerlo. E c'è anche questa possibilità. Io volevo averlo subito. Infatti. E subito l'ho trovato veramente nel giro di mezz'ora. Certo. Per cui. Se c'è qualcuno, se siete che... in vacanza e c'è un consiglio così bello, c'è questo. Se volete leggere un libro, non è mica detto che i libri ci siano tutti in libreria. Purtroppo nelle librerie i libri restano ben poco, le novità restano pochi mesi, se a meno che non siano dei grandi autori. Se volete, appunto, avete fretta o altro, è una soluzione molto. Ci sono anche, fra l'altro, ci sono anche un sacco di giornali, se volete anche, sì, leggere i giornali. Magari lo trovate però da UBIC in Virnerio 27 a Bologna. Beh, non sì, so, sì, si può. Sono libri che sono tutti in commercio, per cui si possono ancora ordinare. E se vi è piaciuto La promessa di Galgoth, sinceramente, io credo che La veglia e La strada verde vi potranno piacere. Bene, noi ti ringraziamo per questi suggerimenti, seppur fuori via, ma sono sempre molto e oltre ben accetti. Ricordo che lunedì è stato presentato, anticipando l'apertura che oggi del Festival della Letteratura di Mantova, che ha avuto la nostra stessa sensazione, che cioè? È quanto mai concreta, cioè un'importanza della letteratura extraeuropea, con la qualità di autori extra. Senza fretta. Ok, ci arrivano senza fretta. Non essere sempre così severa. Loro poi possono andare in diffusione una volta l'anno. Quindi hai, sì, capito? Ma noi lo seguiamo, senti, costantemente questo mondo, allora, hai capito? Io sono 20 anni e più che lavoro su queste cose. No, che ci lavoro sono anche più. Ma più. Sono una ventina d'anni che abbiamo capito che il meglio viene da fuori. Ah, ok. Quindi okay. Non è che loro hanno fatto sta gran scoperta, hanno scoperto l'acqua calda. Ah, bene, ho capito. Allora, immancabile la critica di Silvia, ci mancava anche un pochettino, Io ringrazio Luigi perché a sua volta ci ricorda di un nostro consiglio di cui lui è stato molto soddisfatto. Grazie per avermi dato la possibilità di leggere Il mondo di sera, non preciso il titolo, di Christopher Isherwood, scusa, bellissimo, mi sono ritrovato nelle atmosfere, a me dimenticare di Hemingway e Fitzgerald. Grazie Luigi, grazie a te Luigi per queste due righe di recensione che noi così, senza essere troppo insistenti, richiediamo anche per un aiuto in co-conduzione a chi si porta a casa il libro in palio. Isherwood è un grandissimo autore, a me personalmente piace tantissimo, quindi Il mondo di sera, edizione Adelphi, ulterior consiglio. Torniamo al nostro amato Bollati Boringhieri, quel libro che tu hai detto che è quello che metti in palio, ovviamente. Sì, certo, certo. Benjamin Myers, giorni sempre più bui. Giorni sempre più bui per amanti di emozioni forti. Ecco, in arrivo direi il quiz, allora, prima dello spacco musicale, poi pubblicità. Vai, sì. Allora, io voglio sapere. Il quiz è molto semplice. Io, rifacendomi al titolo di uno dei due libri di Anne Reiter che vi consigliavo, che è La strada verde, io vorrei avere da voi tre titoli di film che contengono verde, che contengono il colore verde. Quindi, quiz come di consueto a carattere cinematografico, tre titoli di pellicole, di film che nell'appunto titolo, come ho già detto, contengano la parola verde. Questo dopo lo stacco musicale daremo anche, per così dire, la consegna ufficiale col nostro podio di risposte, speriamo almeno un podio, quiz abbastanza, insomma, risolvibile, ecco. Sì, il brano che sto mandando? Cowboy Junkies, Don't Get It. A tra poco. They are hipster playlist canadese procede. Io non conosco questa formazione o questa cantautrice, di chi si tratta, Silvia? Questo è il terzo disco che si chiama. Allora, questi sono i Broken Social Scene, non li conosco neanche io, mai sentiti dire, credo che li conosca solo Stefano. Ma abbiamo, a proposito di chi conosce solo, abbiamo anche la risposta a un quiz, che però col notaio, che insomma ogni tanto così scherziamo, ma è stato assolutamente preciso e ha dato conferma. No, no, il film esiste. Intanto il quiz: tre pellicole, tre film che nel titolo riportavano la parola verde. Scrive per primo Luigi: miglio verde, raggio verde, pomodori verdi, fritti verde. Ma noi avevamo detto verde singolare. Ok, caro Luigi, noi ti ringraziamo tantissimo, ma siamo molto precisi e quindi dobbiamo annullare la tua risposta, ringraziandoti ovviamente per aver giocato con noi. Dopodiché abbiamo il vincitore, il miglio verde, com'era verde la mia valle, il colore verde della vita, è Luca. Grazie Luca, il libro è tuo, però confesso che abbiamo fatto ricerca per trovare il colore verde della vita, che è un film italiano. Sì, esiste. E saremo molto curiosi di sapere, se Luca ce lo vuole dire, se ci scrivi la trama. No, se ci dice come l'ha trovato, se l'ha visto, se è un suo amico il regista, perché abbiamo controllato e sia il regista che gli attori per noi sono dei perfetti sconosciuti. Però ciò non toglie che il film esiste, ha anche un buon rating online, quindi ci farebbe piacere sapere se l'ha trovato per caso o se l'ha visto. Saperne di più, insomma, su questo film, sì. In maniera molto immediata. Poi ringraziamo anche Paola, buongiorno e ben ritrovati, grazie Paola. Il raggio verde, il miglio verde e pomodori verdi fritti alla fermata. No, sapete, noi abbiamo chiesto verde al singolare e quindi grazie Luigi, grazie ovviamente anche a Paola, ma l'aspetto per così dire di precisione ci contraddistingue. E Luigi dice: dai, per fortuna non amo lo splatter. Infatti, Luigi, ti conosco. Infatti, se ami Isherwood, non credo che ti possa infatti piacere. Infatti, speriamo che Luca ami Cormac McCarthy, così si divertirà. Ho avuto anche un'altra risposta. Aspettate, che sto ricercando. Eccolo qui, mi è arrivata fuori tempo massimo all'inseguimento della pietra verde, il miglio verde e il pianeta verde. Sì, sì, esiste il pianeta verde. E quindi questo sarebbe andata bene, però è arrivato dopo. È arrivato prima Luca, che sarà contattato a breve per avere conferma e per l'aspetto di consegna del lavoro messo in palio. Il primo libro per la stagione 2023-2024. Azzerato, per così dire, ho confermato la lettura dei messaggi. Sapete bene come la mia incapacità dal punto di vista tecnologico la faccia da padrone in certi casi, per cui ho lasciato un po' della nostra sigla e base per il voltiamo pagina. Allora, Neri Pozza, biblioteca è la collana, biblioteca è che è quella che racchiude un po' una sorta di classicità nella ricerca. Silvia, giustamente, per quanto riguarda questo lavoro, ha detto: oh beh, presenti un'altra novità. In effetti accolgo l'ironia, perché il lavoro che sto presentando è stato portato in pubblicazione nel 1954, quindi siamo nel dopoguerra, siamo in una situazione di provincia nella Inghilterra del conflitto, post conflitto secondo mondiale, e un protagonista, Jim Dixon, è definito Jim il fortunato, Lucky Jim. Allora, l'ho trovato un libro scritto divinamente, del resto lui è Kingsley Amis, che è il papà del recentemente scomparso Martin Amis, nonché anche marito di di Elizabeth Jane Howard, di cui abbiamo spesso parlato. È il primo libro che leggo di Kingsley Amis ed è stata una bellissima compagnia. Puoi anche non leggerli gli altri. Ah, ok. Beh, così tu non l'hai letto, però già mi dici no, questo. Io non. Vabbè. No, dimmi, non dimmi. Dovevi svelare che non l'ho letto, perché è un libro che andrebbe letto. Sì, te lo dico, perché Kingsley Amis è un personaggio abbastanza noto, popolare nella letteratura inglese. È stato uno di quei personaggi che facevano il bello e il cattivo tempo prima dell'ondata di suo figlio, della seconda generazione di Julian Barnes, Ian McEwan, eccetera. Lui era considerato uno dei boss, diciamo. Sì, dettava un po' la linea. Sì, pontificava, se vogliamo, era okay. Un professore universitario, sì, letto, importante, però non ha più scritto niente che fosse all'altezza di Lucky Jim, anche perché Lucky Jim è un libro comico. Sì. E lui dopo. È proprio lì che volevo arrivare. E dopo invece ha voluto un pochino far l'intellettualone. Infatti nessuno ricorda i titoli degli altri libri. Mentre ho letto questo, è l'unico lo dico io. Sì, confermo. Se guardi anche sulle storie della letteratura, c'è solo Lucky Jim, perché Lucky Jim invece è considerato da molti il primo, a torto, il primo dei libri della stagione degli Hunger Young Men, che comincerà poi nel 1956 con poco dopo, 1954. Che sarà caratterizzata da autori proletari soprattutto, mentre lui veniva dall'alta borghesia, certo. E in questo caso il protagonista, come ho già detto, è un professore che sta facendo carriera. È molto fortunato, tutto funziona veramente bene, se non fosse che lui è sempre in attesa della disgrazia, e questo rende un aspetto contraddittorio, allo stesso modo anche particolarmente ironico. È un libro comico, è vero, confermo, è un libro che a volte ti lascia spiazzato, dice quando porta il protagonista nella sua quotidianità a descriverne i problemi, e direi proprio che insomma non sono esattamente dei problemi, sono problemi che lui si vuole inventare. Ma questo protagonista alla fine, come dice il titolo, è assolutamente molto fortunato. È un libro che ci interroga, come tutte le grandi capacità di portare comicità o anche ironia e autoironia, ci porta a interrogare anche a volte quanto noi ingigantiamo i problemi, quando invece i percorsi sono, non dico spianati, ma consueti. Ecco, non voglio dire che questo ha una vita fortunatissima, ma molte volte le problematiche se le inventa. È la linea principale del libro e di quello che secondo me ha voluto comunicare Kingsley Amis, nell'invenzione di quello che può essere un inciampo, quando invece realmente poi alla fine un inciampo non è. E infatti questo giovane aspirante di carriera, professore di storia inglese, quali sono questi problemi? Che deve andare a una festa di un suo superiore che è particolarmente così pesante, noioso, direi proprio che non è un grande problema, che una sua collega Margaret è molto attratta da lui e quindi porta delle avance e fa una corte abbastanza presente, ma anche questo direi che non è esattamente un problema. Altro problema, chiamiamolo così, che il figlio del suddetto professore che ho citato in precedenza ha una fidanzata più grande e lui così ne ha un'attrazione abbastanza forte, ma anche questo non è esattamente quello che viene definito un grande problema. Tutto questo viene descritto e scritto in un lavoro che, appunto, come ha detto Silvia, è diventato un classico, con una venatura comica quanto mai presente tra le pagine di questo romanzo, che, da notare la bella scrittura, da notare anche il botta e risposta dei dialoghi, la stranezza anche che a volte porta già dall'inizio una discussione in cui si perdono per ascoltare musica, se pianoforte o pianoforte a coda, rilascia certamente la vena di umorismo sotteso e a volte anche più esplicito che vi è in questo Lucky Jim. Insomma, non dico che sia un personaggio da invidiare, ma l'aspetto principale è: non creiamoci poi dei problemi o non aspettiamo vediamo sempre l'inciampo e la problematica, quando quello che ci sta capitando e che noi individuiamo come problematica è assolutamente un aspetto normale e percorso di vita. Le edizioni sono Neri Pozza, io lo metto in palio presso Libreria Ubic, anzi ne sono ben contento, poi di ritrovare le amiche della libreria in Via Nerio 27 a Bologna per iniziare il percorso assieme 2023-2024. Il quiz, allora, lui è Lucky. Lucky, c'è un personaggio molto famoso nel mondo dei cartoon e nel mondo dei fumetti. A proposito di letteratura, questo invece come protagonista era un avventuriero, un cowboy, suo cavallo Jolly, che gli leccava le sigarette, che gli preparava le cartine col tabacco. I suoi nemici erano dei fratelli. Se mi dite chi era questo Lucky, io vi darò la possibilità di ritirare. L'altro protagonista però letterario è Lucky Jim di Kingsley Amis. Musica, abbiamo un altro grande canadese che... Beh sì, questo è l'unico fra i dischi scelti che è di un autore direi classico ormai, anche lui sì, decisamente ha anche i suoi anni e se lo merita, che è Neil Young, e lo dedichiamo a Nevio. Esatto. Che è un fan di Neil Young. I saluti per Nevio, che sarà in diretta dalle 10.30 alle 12.30 con la sua Rock Live. E inizio, beh, quiz facile. Comunque Silvia, non volevo denunciare il fatto che tu non avessi letto Lucky Jim, non ti hai letto Un Mondo, quindi anche se questo l'hai trascurato non è certo un peccato, anzi, no, tutt'altro. Sai cos'è? Che era un libro che anni fa, parecchi anni fa, era molto di moda in ambienti universitari, perché chiaramente parla di università. Sì, e lo fa in una maniera. E perché poi sotto c'è tutto un discorso sulle università provinciali inglesi, che chiaramente non erano valutate e non lo sono tuttora come le grandi università, Oxford, Cambridge, University College, eccetera, King's. E chiaramente, e c'è un discorso sul fatto che Jim è un precario, Quindi è la prima figura di precario, se vuoi, che di precario accademico che appare nella letteratura. Sì, ma è anche molto fantoziano. Sì, sì, è, certo, è molto fantoziano. Certo. Anche se i problemi del grande ragioniere sono ben più quotidianità, reiterazione, anche fatica, vessazione e quant'altro. Qua diciamo che è un po' una denuncia a dire e dai, non farla più grande di quella che è, per dirla in maniera molto immediata, e allo stesso tempo la sua scrittura veramente molto particolare, sempre in attesa poi di questa tragedia che non arriverà mai. Che ma lui è bravissimo a complicarsi le cose, esatto, e a fare delle gaffe strepitose che, certo, che poi vengono miracolosamente salvate alla fine. Alla fine va bene. Veramente a me è piaciuto tantissimo, e quindi tu dici che sono adatto all'ambiente accademico inglese. Non esageriamo, vabbè, dai, scherziamo anche un po', Silvia. Detto questo, sono arrivate diverse risposte, perché il quiz particolarmente facile aveva Lucky Luke come protagonista, col cavallo Jolly che gli preparava le cartine per le sigarette. Quando Lucky Luke era particolarmente arrabbiato, il fumo di questa sigaretta prendeva la forma dell'atropo del teschio per minacciare morte. Arriva una risposta esatta da Marco, ma non è arrivato primo. Faccio un pochettino così a tornare indietro nel nostro ricevitore di SMS e WhatsApp. E guarda il libro, sono molto curioso, anche perché la descrizione di quello precedente, Blu come te, è stata veramente affascinante. Quindi è ben contento Luca di aver vinto il libro, per cui insomma non siamo, giustamente noi leggiamo ognuno al proprio orientamento letterario. Questo vuol dire che siamo veramente quanto mai eterogenei nel la magari se quando l'avrà letto ci fa sapere se è stato contento o deluso, saremo contenti anche noi. Certo, allora Lucky Luke, scritto non perfettamente, e i fratelli Dalton, in questo caso invece scritto bene. Buongiorno Gianluca, terzo diciamo è arrivato, perché in prima posizione ritroviamo Dino della Bolognina. Ciao Willy, ciao Silvia, bentornati. Lucky Luke, che è scritto esattamente in, non solo in podio prima posizione, ma anche correttamente. Quindi Dino e Gianluca sono i nostri primi vincitori del Voltiamo Pagina, rubrica letteraria dei 103.1. Dino, puoi andare direttamente alla libreria Ubik di Virnerio 27, chiedi di Kingsley Amis Lucky Jim Neri Pozza. Abbiamo terminato, Silvia. Bene. E oggi abbiamo, sei contenta? Abbiamo fatto due cose assolutamente opposte: un libro nerissimo e un libro allegrissimo. Ma te l'ho detto che c'è un aspetto molto eterogeneo, e va bene nelle nostre presentazioni. Sì, certo. Capito? Così soddisfiamo tutti i palati letterari. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo, a breve Liberi Dentro. Domani andremo in mostra, come ben sapete, e procederà la nostra prima settimana di stagione 2023-2024. Questo format del Voltiamo Pagina anche per oggi, augurandovi un buon ascolto e grazie per l'attenzione e per aver giocato con i nostri quiz, è stato creato e condotto da Silvia Albertazzi e da William Piana. Ciao ciao ciao.